Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Introduzione all'undicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Roberto Cofini. Notte undicesima. Era già venuta la scura notte, madre delle mondane fatiche, e gli animali lassi prendevano riposo, quando l'amorevole e dolce compagnia, lasciato ogni tristo pensiero da canto, si ridusse al solito ridotto, e danzato alquanto con le damigelle, secondo il solito costume, fu portato il vaso, di cui per sorte venne primamente di Fiordiana il nome, indi di Leonora, terzo di Diana, quarto di Isabella, riservando l'ultimo luogo alla signora Vicenza. E fatti portar i lironi e accordare, la signora ordinò che il molino e il trivigiano cantassero una canzone, i quali senza dimora così dissero: «Vostro vago sembiante, nel quali veggio la mia morte e vita, seguirvi, donna mia, mi stringe e invita. Qual è che in voi si specchi e fisso miri, che dal capo alle piante d'un desio non s'infiammi e dolce gelo? E ben mille sospiri non mandi fuor, da far ogni animante a pietà muover con ardente zelo, e per favor e per grazia del cielo, anzi di lei sol dono, trovar non pur mercè, ma sol perdono?» Fu di grandissimo contento a tutti la vaga e dolce cantilena dal molino e dal trivignano cantata, e fu di tanta virtù che fece alquanto per dolcezza piangere colei a cui primieramente toccava. Fine dell'introduzione all'undicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini.